Tempo di Sport con Carlo Genta. Buonasera a tutti, Giorgio Giuca in redazione, Pietro Lacorte in regia e anche oggi Andrea Zorzi qui vicino a me. Ciao Andrea. Ciao, ben ritrovato e ben ritrovati. Per parlare con voi 800 24 00 24, numero verde messaggi 349 238 6666. Visto che poi me li chiedete, sempre usando gli sms, vi do subito i risultati di Serie B, così sbrighiamo la pratica. E sono questi: Ascoli batte Gubbio 2-1, il Modena vince 1-0 a Bari, Cittadella Torino 1-1, il Varese vince 2-1 a Crotone, il Pescara 2-0 ad Empoli, il Grosseto batte la Milan F 1-0, Reggina Padova 0-0, Sampdoria Livorno di ieri 1-1, Sassuolo batte Vicenza 4-2, Verona batte Juve Stabia 2-0, Sassuolo e Torino 46, Pescara 45, Verona 44 in testa alla classifica. Io voglio farti subito una domanda, così vai che sono pronto. Così andiamo subito su un argomento da girare ai nostri ascoltatori. Allora, con le liberalizzazioni, parto da lontano. La prendiamo la lunga qui. La prendo larga anche perché... Momento di crisi, nel quale stiamo tentando di trovare delle soluzioni. Di uscire dalla cacca in cui stiamo negando. Comunque, ieri a Palazzo Chigi hanno detto che il PIL con queste liberalizzazioni potrebbe salire dell'11%, i consumi dell'8%, i salari reali del 12%... E viene voglia quasi di essere ottimisti e di dire che a Roma nel 2020 potrebbero anche esserci le Olimpiadi in un clima di grande euforia. Anche le Olimpiadi hanno fatto le loro previsioni. In questo momento in cui siamo sotto fin qui, allora, anche se ci dicono che liberalizzazione salva tutti. Quindi la domanda è: cosa penso del fatto che Roma si sta candidando alle Olimpiadi? Che effetto ti fa? A te, lo chiedo a te per chiederlo anche agli ascoltatori. Allora, sono in difficoltà, come molti, ad alzare la faccia, ad alzare gli occhi e guardare avanti fino al 2020, perché adesso non ho idea di quello che può accadere dopo domani, tra 8 anni. Io sulle assegnazioni di queste grandi manifestazioni non riesco a scaldarmi nemmeno più di tanto, quindi la prendo partendo alla larghissima come ho fatto. Non possiamo neanche però far finta che il mondo finisca domani, nonostante qualcuno lo pensi. E quindi secondo me è corretto tenere un po' un occhio aperto con molta cautela verso il futuro. Ciò che mi preoccupa un po' di Roma 2020 è che quelle poche dichiarazioni che ho sentito fare dal presidente del comitato, che è Pescante, ma da Petrucci, da Alemanno e quant'altro, è un po' un vecchio metodo di candidatura. Quindi le Olimpiadi diventerebbero ancora una volta un'occasione per costruire palestre, impianti, infrastruttura, per rimettere in moto il PIL del centro, dal nord e del sud. Allora, tutto questo, se è un effetto collaterale, ben venga, ma l'idea che la candidatura è fatta ancora una volta nella convinzione che siano un business non mi convince. Trovo invece che sarebbe bellissimo, lo dico sinceramente, l'idea che Roma 2020 diventasse portavoce di una domanda per me straordinaria: che futuro ha lo sport da qui a 10 anni? Che cosa devono diventare le grandi manifestazioni sportive? In che modo la punta dell'iceberg dello sport professionistico può ricollegarsi con tutti noi? Sì. Questa è la vera domanda. Che sport nel futuro? Allora, questo non significa investimenti da subito multimiliardari nel costruire palazzi, ma significa diamoci un'occhiata, parliamo con tutto il mondo. Ci sono paesi che sono avanti anni luce, il Brasile sta facendo operazioni bellissime, l'Inghilterra lo stesso, anche per le Olimpiadi. La domanda è: in che modo lo sport potrebbe tornare ad avere ancora quel ruolo di stretta connessione tra la base e il vertice? Un discorso difficilmente praticabile dalle nostre parti, dove si parte dal vertice, come dicevi tu. Allora, partiamo a costruire i palazzi, così diamo posti di lavoro, e poi gli esempi più recenti, ti ricordo proprio a Roma i mondiali di nuoto sono finiti con una montagna di avvisi di garanzia, no? Ciò che è Mediterraneo, commissariati. Sì. Mondiali di nuoto, commissariati. Mondiali di pallavolo no, perché non hanno costruito nulla ed è andato piuttosto bene anche. Però l'idea è questa: se noi andiamo avanti con questa metodologia, ma Expo 2015 a Milano, se ne parlava un attimo fa poi con Oscar Giannino, che è stranamente passato oggi in radio. Se noi coinvolgeremo, già ve lo dico, in una delle prossime puntate per tornare su questo argomento. Se noi pensiamo che gli eventi sportivi globali, di cui l'Olimpiade è la massima rappresentazione, sono solo un'occasione per fare business o economia, non si va da nessuna parte, almeno in Italia. Se invece pensiamo che lo sport possa tornare, e lo ripeto per l'ennesima volta, una grande opportunità per guardare avanti con entusiasmo, con un po' di fiducia, per riavvicinare questi due mondi, sarebbe una grandissima opportunità. Non è però questa la strada che mi pare abbiamo imboccato. Sì, mi sembra anche lo sport un settore in crisi di credibilità pericolosa, certo, non solo sul fronte interno, perché un altro dei temi di cui poi parleremo questa settimana, che mi ha lasciato basito per due storiacce di cronaca, che una la conoscerete quasi certamente, quella relativa ad Hector Cooper, un'altra magari noi poi ve la raccontiamo, che è quella di Dikembe Mutombo, ex giocatore NBA di altissimo livello e personaggio specchiato coinvolto in una storiaccia di cronaca di traffici illeciti d'oro con il suo paese, per il quale ha fatto tantissimo a livello umanitario, che è il Congo. E tu dici la prima reazione, ma se anche due così, quello che si definiva l'ombra verticale e questo ambasciatore quasi dello sport, se anche due così finiscono invischiati in storie di questo tipo, la credibilità dello sport viene minata da ogni punto di vista, al di là di Masiello e delle sue confessioni di ieri a Cremona. È corretto, mi permetterei di dire ancora una volta che anche lo sport è come tutti gli altri settori della nostra vita. Fatto quindi di bellissime cose, di brutte cose, di persone per bene e meno bene. L'esposizione. Però per com'è lo sport, se viene meno la credibilità, Andrea, se viene meno il rispetto delle regole, mi sembra che questo sia particolarmente pericoloso. Cioè se alla fine, se arrivi ad un punto in cui non ci credi più, e lo sport è una cosa emotiva, è particolarmente pericoloso perché è molto esposto. Sì. La mancanza, il tradimento di un valore sportivo da parte di un atleta particolarmente conosciuto ha effetti dirompenti. Sì. Attenzione, non è che perché qualcun altro a livello più basso tradisce i valori delle relazioni con la professione, con gli altri, sia molto diverso. È molto molto meno grave, o meglio, è molto meno popolare, ma l'effetto è lo stesso. Quindi il discorso è la sovraesposizione, che in qualche modo è gioia e dolore dello sport, causa questi problemi gravissimi. Dunque adesso ci fermiamo per il traffico, poi applaudiremo anche le ragazze azzurre. Il settore femminile, caro Andrea, ci regala sempre quasi ogni appuntamento del sabato, invece è l'angolo delle buone notizie quasi. Oggi c'è quella della magnifica Errani, che agli Australian Open ha conquistato un risultato incredibile, cioè per la prima volta nella sua carriera agli ottavi, ed è l'unica italiana ad essere arrivata fin lì. Poi c'è Federica Brignone, che continua la scia di eccellenti successi dello sci azzurro, seconda oggi nello slalom, e poi applaudiremo anche le ragazze, e poi dopo il traffico ti sottopongo altri due o tre spunti che in settimana mi hanno colpito. 800 24 00 24, numero verde, messaggi 349 238 6666. Per un'ascoltatrice che si chiama Fornella, ci va giù dritta, le Olimpiadi sono il super business per le mafie, bam, eh? A proposito di cosa ne pensate della candidatura a Roma 2020, pam. C'è poi Sandro da Udine che vuole, poi glielo diamo, un parere su Mourinho: perché soffre così tanto Guardiola e il Barcellona? Avete una spiegazione a livello psicologico e tecnico? Io non, sinceramente non ce l'ho, che lo soffra in maniera ormai conclamata mi sembra fuori discussione. Però torniamo sul discorso: se anche quelli che credevi avessero una faccia pulita ce l'hanno invece sporca di fango, sempre che sia fango, e allora la credibilità dello sport davvero è minata da ogni lato. Massimo Oriani, inviato della Gazzetta dello Sport, ciao. Ciao. Massimo Oriani, che ha raccontato la storia di Dikembe Mutombo. Per chi non è dentro al basket NBA, è stato un centro dominante nel campionato americano fino a pochi anni fa, in realtà, anche se di anni da 45 ha giocato fino oltre i 40 anni, è un personaggio specchiato, no Massimo, correggimi se sbaglio, uno di quelli che finiscono nella Hall of Fame per meriti umanitari e che mai ti aspetti venga coinvolto in una storiaccia di traffico d'oro proprio con il suo martoriato paese, che tanto ha fatto per aiutare, almeno dal punto di vista pubblico. Sì, purtroppo è stata una sorpresa negativa clamorosa, perché nessuno si aspettava di vedere Mutombo coinvolto in una storia così triste da un certo punto di vista, da tanti punti di vista, perché poi stiamo parlando di un paese, la Repubblica Democratica del Congo, che oramai dal 1998, direi 95, forse è martoriato da una serie di guerre civili e non, che hanno causato almeno 5 milioni di morti, cifre spaventose, non si rende neanche conto, tanto l'Africa diciamo che è un po' dimenticata dagli uomini, mi sembra, per cui. E purtroppo Mutombo si è scoperto appunto che sarebbe, perché lui non ha ammesso niente, anche se le testimonianze contro di lui cominciano ad essere parecchie, è stato coinvolto in questo tentativo di portare fuori dalla Repubblica Democratica del Congo oro per un valore di 10 milioni di dollari, il cui il 10% si era messo in tasca lui, si sarebbe, perché poi l'affare è saltato. Mm. Andrea Zozzi, che ha letto con molta attenzione anche le pagine americane ho letto l'articolo di Gazzetta, e dopo avevo visto che la fonte era il Chicago Chronicle, credo, quindi ho letto un po' l'articolo. Houston Chronicle. Houston, esatto, perché lì dove ha giocato Mutombo, ed era quindi molto dettagliato, anche troppo per la verità, raccontava proprio di questo blocco dell'aereo, di quanti soldi hanno sborsato per liberare le persone. Però tornando alla sorpresa negativa, è evidente che fa male. Poi io dico, insomma, dico anche da ex atleta, è veramente abbastanza brutto, fa una certa impressione vedere che poi accadono cose che non vorresti mai vedere. Mi viene solo da dire che il passaggio da atleta ad ex atleta, indipendentemente dal livello economico che hai raggiunto, è sempre molto complesso, e talvolta però proprio questa sorta di chimera dei tanti soldi può diventare pericolosa. La domanda è legittima, ma se anche loro che sono ricchi lo fanno, allora dov'è la credibilità? Ciò nonostante vediamo che spessissimo in moltissimi sport questo passaggio traumatico dalla fase della carriera a quello che fai dopo diventa molto complesso da gestire. No, ma poi se lo fanno certi loschi figuri che insomma ti puoi anche aspettare, non voglio diventare lombrosiano, però questi qui e Hector Cooper, l'ombre vertical con quella faccia pulita, uomo tutto d'un pezzo, che prendi 200.000 dai camorristi che gli portano le mutande. Dikembe Mutombo, che è uno dei, Massimo correggimi se sbaglio, uno dei personaggi sportivi più rispettati d'America per quanto ha fatto fuori dal campo. Beh, se lo fanno anche loro o no? Sì, lì poi secondo me bisogna stare attenti, perché si entra in un terreno molto minato. Io non so quanto le finanze di Mutombo siano, in che condizioni siano, c'è sempre da ricordare da dove arriva questa gente. Cioè Mutombo arriva da un paese dove le tradizioni e i legami con la tribù a cui si appartiene e la famiglia intesa nel senso africano, per cui stiamo parlando di famiglie magari di 50 o 100 persone, perché quelli che loro chiamano i petit frères, i cugini, magari con legami di sangue anche proprio chiarissimi, quando uno ha successo, diventa un personaggio pubblico, fa soldi, la coda per battere cassa è lunghissima. È chiaro. Per cui può anche darsi che lui, adesso non, questo non vuole certamente essere un modo per scusare o giustificare quello che ha tentato di fare, ma può anche darsi che si è trovato coinvolto, non dico suo malgrado, ma si è stato travolto un po' dal suo passato, dalle sue origini. Senti, ma tu che conosci molto bene il mondo americano, lo frequenti continuamente, la crisi di credibilità che avvertiamo noi nei confronti dello sport con le nostre storielle, storiacce, che sono ormai quotidiane, da Masiello a Doni, in su o in giù, la crisi di credibilità che abbiamo noi la sentono anche di là? Per ragioni ovviamente diverse, dal lockout NBA ad altri problemi che ci possono essere, o lì lo sport è ancora qualcosa in cui credono tutti? Sì, secondo me è completamente diversa la situazione. Innanzitutto bisogna ragionare in termini di sport e sport. Il lockout NBA ha interessato fino a un certo punto, perché è avvenuto nel pieno della stagione del football, e il paragone, il football negli Stati Uniti diciamo ha la stessa rilevanza che ha il calcio da noi, cioè c'è un abisso tra il football e il basket e il baseball. Il football è di gran lunga lo sport nazionale e non c'è niente che si avvicini nemmeno lontanamente. Poi chiaramente non c'è magari il divario che c'è tra noi, da noi tra calcio e il resto dello sport, che è un po' dimenticato. I numeri sono ottimi sia per la pallacanestro che per il baseball, però il football la fa da padrone alla stragrande, e in questo senso il mercato NBA ha lasciato diciamo pochi strascichi. Se fosse durato di più, forse una volta finito il football, cioè fra 15 giorni, si sarebbe sentito maggiormente, così direi di no. Per questo mi sembra che in America ancora non ci sia questo tipo di problema, ecco. Forse però vale la pena anche ricordare, per evitare equivoci, che il concetto di credibilità dello sport nel mondo anglosassone è radicalmente diverso, quindi lo vivono in modo diverso. Faccio una provocazione: quando vanno a vedere il baseball e ci si va con le patatine, gli hamburger, la birra, e si si guarda e si chiacchiera e si sta lì tre ore, non c'è lo stesso approccio che caratterizza il nostro modo italiano, forse latino, di guardare allo sport. Quindi in realtà alcuni rischi sono ridotti. C'è un modo un po' più professionale, un po' più razionale di vivere anche la passione per lo sport. In questo senso mi pare che lì siano garantite alcune valori che qui sono saltati, ma non potremo mai paragonare il nostro modo di viverlo con quello che fanno gli anglosassoni. Però è anche vero che anche negli Stati Uniti certe storiacce relative a personaggi molto popolari, non ti dico che sono all'ordine del giorno, però da Barry Bonds, che è il primo che mi viene in mente, a storie di doping, a storie di violenze, a storie di pistole negli spogliatoi, come ben sa Massimo Oriani, da Gilbert Arenas ai suoi fratelli, insomma, storiacce di questo tipo sono quasi all'ordine del giorno, relative a personaggi molto popolari. Vengono in fretta emarginati. Grazie, stavo incartando. Vengono molto in fretta emarginati, devo dire, da questo punto di vista. Pensate che l'MVP di quest'anno della National League, Ryan Braun dei Milwaukee Brewers, ha trovato positivo e credo se oggi o domani gli verrà consegnato il premio di MVP e dovrà fare il suo bel discorso accettandolo con tutto quello che attorno gli gira, questa nuvolona nera. Lui dice di essere innocente, però pare che i livelli di testosterone siano stati i più alti mai rilevati in un test antidoping fatto dalle Major League, e ciononostante si va avanti, appunto, vengono presi, messi da parte questi casi, e si dice però sì, però lo sport comunque riesce a superare questi personaggi negativi, ad andare oltre e riuscire appunto a metterli in un cantuccio e dimenticarseli quantomeno, o a indicarli anche come esempi negativi da evitare. Sì. Grazie Massimo, buon lavoro. Grazie a voi, buon lavoro. Buona giornata. Grazie a Massimo Oriani, inviato della Gazzetta dello Sport. C'è Vito dalla provincia di Sondrio e poi ti butto in un altro paio di considerazioni che su altri temi, Andrea. Vito, buongiorno. Buonasera a lei, buonasera. E ai suoi ospiti e agli ascoltatori. Dica. Allora, io cercherò di essere brevissimo, ho 45 anni. E a 10 anni lessi un libro molto divertente dove degli alieni dovevano invadere la Terra e prelevavano a campione delle persone per intervistarle per vedere se potevano invadere il pianeta. Tra le varie cose simpatiche sequestrano un arbitro e restano sconvolti nello scoprire che quelli che giocano e che quindi si divertono vengono pagati e quelli che stanno seduti in tribuna sotto l'acqua, al sole, via, che non possono mai giocare addirittura pagano. Ecco. ci dica il libro, il titolo del libro. Allora, si intitolava Gli UFO vengono da Cipango. Non l'ho mai più ritrovato, mi piacerebbe ritrovarlo perché è un libro che mi ha segnato tantissimo. Sì. A 15 anni pedalavo neanche tanto male, alle prime gare così cominciare a vedere le magliette sponsorizzate, soldi che giravano, poi sappiamo tutti come funzionano, l'ho capito a distanza di anni, le sponsorizzazioni sportive delle associazioni, e lasciamo perdere. Sono andato a lavorare in banca e banche che assumevano qui nel nord Italia persone che sapevano sciare bene solo per vincere i campionati interbancari e farsi pubblicità e cose del genere. Poi quello che succede nello sport professionistico lo vediamo. Sì. Secondo me il problema è proprio il rapporto tra capacità e soldi. Se uno fa bene uno sport, una passione, deve farlo. Se prima faceva il medico, l'operaio, deve avere la possibilità di continuare a seguire la sua passione e guadagnare quello che guadagnava prima. Lo stesso metro lo applicherei anche in politica. L'operaio che vuole andare in politica o il neurochirurgo che vuole andare in politica dovrebbe essere pagato per quello che guadagnava prima e continuare a farlo con passione, sia lo sport che qualsiasi altra cosa. Ma i soldi proprio rovinano completamente tutto. Ho capito... Vito, ho capito, però insomma stiamo parlando di sport professionistico e il professionismo sta in questo, nel fatto che io sono fungibile, Andrea Zorzi meno di me, però ci sono degli sportivi il cui cachet è determinato dalle leggi del mercato e io a queste sinceramente non mi ribello, posso invidiarli molto come ho detto tante volte, però non riesco a scandalizzarmi di fronte agli ingaggi degli sportivi, nemmeno in questo momento. Insomma. Non ti scandalizzi perché viviamo in questo mondo che segue queste regole, però la domanda di Vito, o meglio la provocazione di Vito, è molto interessante, cioè dire fino a che punto l'aspetto prettamente economico deve condizionare la nostra modalità di vivere, la nostra percezione. Io non credo sia facile in questo momento, non sia neanche possibile dire fai professionista, va bene, prendi lo stipendio di un ragioniere o fai politico, perché così diventerebbe complicato, ma l'idea è siamo davvero mossi solo ed esclusivamente da questioni di natura economica? E che nello sport questa è una domanda che rimane piuttosto aperta. Sì. Adesso come adesso, fai bene te a dire, lo sport attualmente, quello professionistico, si muove in base a leggi di mercato. Sì. No, poi questo è vero, questo è certamente vero, questo è certamente vero. Poi io posso anche essere disturbato da certe storie, no, se vogliamo rimanere lì, come ad esempio quella di oggi, leggo sulle agenzie che Cerci, il giocatore della Fiorentina, e Maxi Lopez, quello del Catania, non sono stati convocati per le rispettive partite perché disturbati da voci di mercato. Disturbati, capito? Disturbati a voci di mercato. Sono un po' disturbato anch'io e mi domando se posso invocare la giusta causa per non presentarmi domani a questi microfoni a condurre 3 ore di programma. Non credo. Beh, anche Tevez è un po' disturbato. Visto anche, che un po' Tevez è un po' anche Tevez è un po' disturbato, così disturbato che ha detto di no a 11 però, milioni di euro del Paris Saint-Germain. Però così, Carlo, mi porti da una discussione di principi globali, universali, del valore, del rischio della parte economica con qualcosa di super... Se sono disturbato, sono disturbato. No, poi c'è un'altra cosa, guarda, te la butto lì, poi ci fermiamo un attimo. Intanto c'è Marco da Siena che scrive: e se facessimo la fine della Grecia dopo Atene 2004 in ospitare le Olimpiadi del 2020? Qualcuno dice che i primi grandi problemi della Grecia economici sono nati lì. Qualcuno dice, sarà anche vero, io ci credo abbastanza. Lì hanno iniziato a falsificare i conti. Lì ci credo abbastanza. No, un'altra cosa che ti volevo dire, perché l'ascoltatore Vito diceva che ha letto questo libro, sì, mi fermo, non gli c'è UFO traffico. Vengono... Un attimo, mi fa il segno di chiudere, no. Gli UFO vengono da Cipango. Voglio dire un'altra cosa, così la giro agli ascoltatori. 800 24 0024. Gli UFO vengono da Cipango e dicono: ma come, quelli lì che vanno a vedere le partite pagano? Sono sempre meno, perché una delle cose che mi ha colpito questa settimana è che San Siro, dopo il derby, apre i cancelli due volte in 24 ore per la Coppa Italia, e la prima volta ne entrano meno di 2000 per Milan-Novara. Facevo un freddo cane l'altra sera e la partita... era Milan-Novara di Coppa Italia, la sera dopo c'era l'Inter, poco più di 8.000 paganti, e insomma dicevo: ma possibile? Giocano di notte, fa un freddo cane, partite che non interessano a nessuno, ma giocatele di pomeriggio e fate entrare i bambini. Poi oggi leggo questa notizia su Repubblica, per altri motivi, in una partita di Coppa olandese, era un repeat seguente a fattacci che erano accaduti a Ajax AZ Alkmaar, ebbene lo stadio pieno di 20.000 bambini. Allora, Andrea Zorzi, ti spiego meglio quello che è successo in Olanda, anche se lo sai, così lo spiego più che altro agli ascoltatori. Cosa che mi porta a chiederti se c'è bisogno di un fattaccio come prequel di un'iniziativa lodevole. Allora, all'Amsterdam Arena c'era questo ottavo di finale di Coppa d'Olanda. Nella prima gara un invasore ubriaco era stato preso a calci dal portiere dell'Alkmaar, era successo un casino infernale, partita sospesa, e visto il precedente la Federcalcio in un primo momento aveva deciso di rigiocare a porte chiuse. Poi è saltata fuori quest'idea: la violenza va combattuta con un gesto di segno opposto. E allora sono state allertate le scuole delle due città, sono stati distribuiti biglietti gratis, i bambini all'uscita dalla scuola, tutti sul pullman, con la merenda, sono andati allo stadio alle 4 del pomeriggio, erano in 20.000 di sotto dei 13 anni, non c'erano adulti se non il minimo sindacale degli accompagnatori, ed è stato qualcosa di meraviglioso. Ora mi domando se è necessario un ubriaco che invade il campo e viene preso a calci dal portiere, quindi un fatto di questo tipo, per assistere ad un'iniziativa di questo genere, o se non sarebbe sufficiente una qualsiasi partitaccia di Coppa Italia per combattere il disinteresse, non il, come ti ho detto, la violenza va combattuta un gesto di segno opposto, per combattere il disinteresse, per fare qualcosa di creativo una volta. Intanto, se l'ubriaco che entra a picchiare il portiere avversario non ci fosse, è meglio per tutti. Poi però dopo bisogna dire che le grandi squadre, sicuramente Milan e Inter, hanno già un canale preferenziale con molte delle scuole, degli oratori, dei centri sportivi, e quindi spesso volentieri capita di invitare i ragazzi gratuitamente a partecipare alle partite non di cartello. Un discorso però è avere un'occasione come questa, un evento non, diciamo, quasi unico, in cui coinvolgi tutta la città. ma se sono due partite 24 ore, perché l'Inter ne è una, il Milan ne è un'altra, tra un po' c'è una partita di Coppa Italia, quindi non si può neanche pensare che questa diventi la soluzione costante per le tante partite, e non tutte sono in grado di catturare l'attenzione dei tifosi, perché questo è quello che succede. Sì, sì. Dopodiché mi pare interessante l'idea che invece di pensare alle porte chiuse, che invece di pensare chissà quale soluzione, ce ne sono. Fenerbahce a Istanbul, anche lì credo fossero picchiati tra i tifosi. Cosa hanno fatto? Stadio aperto solo alle donne. Quindi partita bellissima, interessante. Ci sono alcune soluzioni creative molto interessanti che poi hanno anche la possibilità. Ma è necessario aspettare un fatto di cronaca per dare il via alla creatività da questo punto di vista? Però io dicevo questo, credo che questo tipo di canale sia in qualche modo già utilizzato. Non abbastanza, secondo me. Non abbastanza? Abbastanza, perché la giochi alle 2 del pomeriggio, inviti i bambini a delle scuole, li vai a prendere in pullman, fai qualcosa, ovviamente ingresso libero per tutti, tanto che chi se ne frega di questa cosa. E è chiaro, poi ci sono le esigenze televisive, ma mi domando, non ho i dati, ma quanti hanno visto? Carlo, per me rimane lo stesso, troppe partite, molte delle quali evidentemente non servono, ecco. Fabrizio da Riccione, buonasera. Buonasera, io mi chiamo Fabrizio, sono presidente qui di una piccola polisportiva qui di un quartiere di praticamente San Lorenzo, qui di Riccione, un quartiere di Riccione, quello più popoloso. Ma funzionano le polisportive in Italia? Perché questo era un altro argomento che volevo toccare con Andrea Zorzi sulla scorta dei discorsi romani. Lei sa che Toti si è dimesso per l'anno prossimo presidente di Roma Basket, si parla di una polisportiva che sarebbe capeggiata da Pallotta e dalla Roma Calcio. Andrea Zorzi, una polisportiva, ci ha giocato e lei mi dice sono presidente di una piccola polisportiva. Funzionano le polisportive in Italia? No, io quello che le volevo dire su quel discorso che avete fatto, sì, funzionano con tantissimi problemi sempre legati purtroppo a un discorso televisivo. Io quello che voglio intervenire è sul fatto economico, perché la distorsione che c'è vedendo la televisione è molto purtroppo grave, che si ripercuote anche nelle piccole società. Noi, per dire, nel discorso calcistico facciamo una categoria minore, siamo in prima categoria, però noi non paghiamo nessuno, no? A livello di giocatori, e siamo una mosca bianca, perché purtroppo lo scimmiottare diventa a livello economico anche nel piccolo. Per cui la cultura dello sport bisognerebbe cominciare proprio dal basso, anche in queste piccole società, insegnare anche nei bambini che comunque lo sport è divertimento, lo sport è divertimento quando vai in campo, comunque devi rispettare il cosiddetto avversario, che non è un avversario, ma poi a fine partita è un tuo amico, per cui insegnare, partire proprio dal basso. Però la cosa purtroppo, in Italia abbiamo televisioni, abbiamo Sky, televisioni private, televisioni pubbliche, abbiamo tanti quotidiani sportivi da dover vendere, per cui la polemica, qualsiasi cosa si ritrova, quel danno che si crea comunque fino da piccoli, perché poi non si miottare, lo vediamo in campo, che noi nelle partite che si effettuano durante la settimana, è sempre comunque si miottare i grandi. Per cui serve una cultura dello sport. No, sport, questo a prescindere. Nel vero senso della parola. E questo purtroppo devo fare una colpa anche a livello sia televisivo, a livello giornalistico, non certamente la vostra trasmissione, che penso che sia tra le poche molto corrette, non è una sviolinata, ma è una realtà. No, ma Fabrizio, però purtroppo la cultura dello sport in Italia non si è stata legata. La cultura dello sport, mi perdoni, giro subito la risposta di Andrea Zorzi dopo questa considerazione. La cultura dello sport però non prescinde dal fatto che i giocatori possono essere pagati dalle leggi di mercato, no? Cioè no, non prescinde, ma la situazione in cui siamo è diversa. Esiste solo l'idea dello sport professionistico, quindi pagato, proprio l'idea dei soldi. Mentre ne parlavo, mi viene in mente che ho letto più volte, sono sicuro che sia accaduto a Sting, grandissimo musicista, ma anche a un altro musicista di musica classica. Hanno fatto un esperimento, si sono messi leggermente travestiti a suonare in un angolo della metropolitana. Non li ha considerati nessuno. La stessa identica musica suonata in un palasport o in un teatro, e la gente pagava 80 euro per entrare, la stessa identica musica. Allora, il discorso è anche questo, siamo talmente abituati a vivere in cui il valore viene dato in base alla relazione con la parte economica, che ci dimentichiamo che esistono anche altre modalità. Dopodiché, quando tu mi dici, attenzione, non è un delitto guadagnare facendo sport, certo, sono d'accordo con te, anche perché io ho vissuto in quell'ambiente per molto tempo, ma la domanda è, il rischio di adesso è che noi consideriamo solo quella parte lì. Sì. Lo sport vale più che altro perché è una fonte di guadagno, lo vale per il professionismo, per i milioni di euro che costano e via dicendo. Questo è un po' il rischio. È come se il resto non contasse nulla, come se non esistesse. Questo secondo me è lo sbilanciamento che è pericoloso. Non è una lotta allo sport professionistico, che ha diritto di esistere, anzi, è che non c'è l'altra parte, non c'è la base sulla quale poi si può sorreggere la parte professionistica economicamente rilevante. Io qualche ascoltatore abbiamo problemi ad intenderci, c'è chi mi scrive, ma ti parlo una domanda, deve avvenire un fatto di cronaca per adottare soluzioni creative, ma ci sei o ci fai? È come chiedere, devo fare l'incidente prima di chiamare l'ambulanza? Su, stai bravo. Beh, ah no, allora aspettiamo che avvenga qualcosa e poi stiamo qui a sbrodolarci addosso un sacco di demagogia. Quello che dico io è che con un po' di creatività lo sfruttare l'occasione di partite non di grandissimo richiamo per tentare soluzioni sullo stile di questo olandese, del Fenerbahce, eccetera. Insomma, bisogna aspettare che accada qualcosa e poi far partire la macchina della demagogia. Morire di noia tutti quanti e poi dire mandiamo i bambini allo stadio. Però il messaggio ha equivocato. Tu non dici di chiamare l'ambulanza prima di fare l'incidente, ma fare in modo che uno sia in grado di guidare per evitare gli incidenti. Esatto. Questa è un po' l'idea. Bene, qualunque sia la soluzione, benvenuta. Ognuno la capisca come ne ha voglia. Perché chiamare l'ambulanza prima di fare l'incidente effettivamente non è particolarmente utile. Stefano Melocchero da Sky. Ciao Stefano, grazie. Eccoci qua, buon pomeriggio ragazzi. Poi se capita l'incidente, però saperlo volgere in positivo e saper trovare anche dall'incidente uno spunto per inventarsi qualcosa non è una brutta cosa. No, tutt'altro che una brutta cosa, infatti ne stiamo parlando. Però insomma, la creatività subentra sempre dopo, no? Dopo l'incidente, dopo che è successo qualcosa che ha colpito tutti e così via. Però Stefano, con te volevo parlare invece, fare un applauso tutti quanti insieme a Sara Errani. La cosa bella di questa storia australiana è che il turnover nel mondo del nostro tennis femminile è in atto. Oh, ma sono una più forte dell'altra, cioè veramente si addormentano le prime due, perché quelle insomma si sono veramente addormentate in Australia, chi per un motivo chi per l'altro, parliamo ovviamente di Schiavone e Pennetta. E si è svegliata, per modo di dire, Sara Errani, che insomma poi già era bella sveglia perché è il numero 35 del mondo, però sai, rispetto al cospetto dico tante giocatrici fa una figura un po' minore in questo momento. Tra l'altro voglio dire, i titoli dei giornali poi sono tutti per lei, quelli online saranno tutti per lei, se li merita, perché comunque primo ottavo in uno slam. E se sapete, se avete mai visto giocare a tennis Sara Errani, sapete meglio di me che è proprio la dimostrazione di come con tanto impegno, tanta volontà, tanta dedizione, tanta applicazione mentale poi si possa riuscire, anche se non si è proprio nate baciate dal dio del tennis, perché Sara non credo che sia, a parte che in Australia non mi sente, però insomma non credo che si arrabbierà se diciamo che comunque non è esattamente McEnroe come braccio, no? Sì. Però si è messa lì negli anni, è emigrata, lei è andata prima da bollettieri, poi facendo grossi sacrifici e tanti pianti con la mamma e col papà lontani, e poi è andata in Spagna e finalmente ha ottenuto il suo miglior risultato dello slam e non possiamo che essere molto contenti. Ma certo, ma soprattutto per il discorso che facevo prima, cioè le prime due si addormentano, ne sbuca un'altra, poi insomma questo ricambio, ho l'impressione che una via sia stata aperta, no Andrea Zorzi? Avevo una curiosità, perdonami, se Melocchero mi aiuta, bollettieri... che è famoso per ragazze, adesso sta lavorando ancora molto con la scuola? Bollettieri ormai alla scuola dà solo il nome, i malpensanti dicono che questa cosa qui fosse anche quando lui era in campo, perché in realtà diciamo il mondo del tennis è diviso a metà, no? Cioè si dice che da un lato Bollettieri sia un guru del tennis, uno che bastava che ti con la sola imposizione delle mani era in grado di creare giocatori buoni, metà del tennis pensa questo, altra metà continua a pensare che fosse soltanto un grandissimo ciarlatano all'americana. Io ho parlato, e mi fido di lei, con Raffaella Reggi, che tutti voi ben conoscete, che è ragazza alla Sara Errani a suo tempo, e diventò numero 13 del mondo, essendo una ragazza dotata di grande volontà e di braccio non morbidissimo, e lei da bollettieri c'è stata e mi ha detto che invece insomma che era un gran posto per imparare a giocare a tennis, perché si respirava aria di tennis in ogni angolo di questa accademia, che ancora esiste e che è attivissima, e lei fu molto aiutata proprio da più che tecnicamente proprio dallo spirito di competizione che si respirava su tutti i campi, dalla grande voglia di tutti di battere tutti quanti. E poi io ho assistito 20 anni dopo al reincontro tra André Agassi e la Reggi, che si erano allenati da ragazzini lì, e quando Agassi vinse a Roma nel 2002 venne ospite da noi in studio, nell'allora studio di Stream, e quando vide Raffaella fu una festa, cioè questi non si erano conosciuti 20 anni prima e l'uno si ricordava ancora perfettamente dell'altra. Ma io credo che una delle caratteristiche importanti è che nel tennis soprattutto devi diventare tostissimo, devi saperti organizzare, devi saper soffrire, devi essere uno, non come negli sport di squadra, che può appoggiarsi spesso e volentieri sugli altri, sui dirigenti, sull'allenatore. Ecco perché forse questo percorso, in questo caso con Bollettieri ma anche con altre accademie, permette agli atleti di capire cosa significa far parte di quel tour, perché sì, è molto esatto, è così. Ma poi il tennis è veramente tra i tanti sport molto difficili che ci sono sulla faccia della terra. Il tennis è veramente l'ha inventato veramente il diavolo, perché per diventare se tu sei numero 80 del mondo vieni considerato, insomma, il numero 80 del mondo. Se nel tennis sei, non voglio dire una pippa, scusate il termine, ma siamo lì. Sì. E se sei il calciatore numero 180 d'Italia, guadagni probabilmente 500.000 euro e giochi in una buona squadra di Serie B o una buona squadra di Serie C1, cioè, capito? E probabilmente giochi a 100 km da casa tua, non ti sei mai allontanato più di 4 giorni da casa tua, a meno di rarissimi casi. E, insomma, nel tennis, se vuoi diventare forte, veramente devi mettere in preventivo di trascorrere 8 mesi l'anno dall'altra parte del mondo. È veramente uno sport difficilissimo. Io ricordo nel beach volley c'è questa caratteristica: per le coppie italiane è difficilissimo, perché sono convinti che girare il mondo, andare in Brasile a giocare sia bello, dopo un po' è faticosissimo, molto impegnativo, devi organizzarti da solo. Sì. Non hai un allenatore, o ce l'hai però non è come nella pallavolo indoor, sei abituato a uno stile in cui per davvero gli altri fanno molto per te, tu porti la tua borsina in palestra, ti alleni, vai fuori, e quindi in questo caso nel beach volley tu sei molto più responsabile. E guarda caso anche a livello europeo le coppie svizzere, quelle austriache, quelle norvegesi, quindi non paesi dotati di grandi mari spiagge, hanno grande successo perché sono comunque più responsabili, più organizzati rispetto a noi, perché hanno la mentalità. Stefano, scusate ragazzi, ultimissima cosa che vi dico: la particolarità del tennis ancora oggi è che, a meno che tu non sia in maniera molto chiara Boris Becker o suo diretto discendente, comunque se non hai soldi non vai da nessuna parte, perché Sara Errani, lei li ringrazia sempre, ha dei genitori, il papà in particolare, che ha dedicato praticamente tutte le sue sostanze e un po' ne hanno, perché hanno un ingrosso di frutta o qualcosa del genere, insomma, per mandarla in giro e per fare, perché se sei uno così e papà fa un lavoro normale, è veramente veramente dura, è veramente dura, mentre invece da questo punto di vista lo sport di squadra ancora ti aiuta un po'. Grazie Stefano, un abbraccio, a prestissimo. A voi, a presto, grazie molte. Grazie davvero Stefano Melocaro. Giorgio della provincia di Milano e poi chiudiamo, caro Andrea. Buonasera Giorgio. Sì, buonasera. Volevo fare una riflessione sull'argomento che dicevate prima, sugli stadi vuoti. Sì. E inizio con una domanda provocatoria: ma veramente si vogliono riempire questi stadi? In che senso? A me sembra di no, perché io sono un tifoso interista, abbonato da ormai 15 anni, e ultimamente con anticipi, posticipi, cioè se si sa quando si gioca 2 settimane prima è già tanto, mentre prima si sa, uno che vuole fare un abbonamento anche con un bambino, è impossibile riuscire a fare un abbonamento, andare allo stadio, perché non si sa quando si gioca. No, ma certo, cioè, non si sa quando si gioca, bisogna essere l'Inter schedati. Non ha mai giocato il pomeriggio, e portare un bambino allo stadio di sera è una cosa impossibile. Sicuro. Domanda semplice: in che percentuale i biglietti, gli abbonamenti sono decisivi per il budget della società rispetto alla televisione? Nessuno. Quindi la risposta... Il calendario lo fa la televisione. Certo. E quindi poi non ci lamentiamo se gli stadi sono vuoti, però. No, ma infatti, ma hai ragione Giorgio, io dico la verità, io allo stadio non ci andrei mai, da cliente. Ma perché? Perché è una cosa costosa, complicatissima, scomoda, perché vengo comandato dai palinsesti televisivi nel fruire della mia passione. Quindi io sinceramente allo stadio, soprattutto negli stadi italiani, non ci andrei, perché per mille ragioni, a parte il fatto che è veramente molto difficile andarci, perché tra tessere, controtessere, richieste, documenti, eccetera, eccetera, non è quasi fastidioso. Poi costa un sacco di soldi, poi è scomodo, poi, ma per tutte queste ragioni. Quindi non mi sorprende affatto che gli stadi italiani siano deserti. Siamo in fondo, vero? Sì, perché? Perché rassicuriamo il nostro primo ascoltatore, Vito. Sì. Allora, gli UFO vengono dal Cipango, pubblicato nel 92 dall'editore 6, scritto da Domenico Volpi, costa 6,20 euro e pare sia disponibile in 3-5 giorni. Quindi io me lo compro. Anch'io. Così scopro questa storia degli alieni che dicono: ma quelli che vanno a vedere lo sport, che cosa hanno nella testa? Andrea, grazie. Ciao a tutti, alla prossima. Grazie ad Andrea Zorzi, Giorgio De Luca in redazione, Pietro Lacorte in regia con lo sport. Ci sentiamo domani pomeriggio dalle 4:30 alle 7, poi c'è il basket, naturalmente domani sera Palla Spicchi dalle 20:30 alle 21. Buona serata. A tempo di sport.